55esima trasmissione dedicata agli emigrati. Viva il Friuli! Campane s'aggiunge oggi, cari fratelli in ascolto, a quel saluto della Furlania, dai monti sino al mare, che è l'inno ufficiale della Società Filologica Friulana. Un canto che oggi richiama nel cuore di tutti i friulani due motivi in apparenza lontani fra loro, ma in realtà l'uno all'altro strettamente legati. Il primo motivo è dato dall'anniversario della morte di Chino Ermacora, l'altro dall'imminente Frae di Primavere della Filologica in Val d'Arzino, una festa questa che il nostro caro amico tanto amava. Dedicandovi questo canto lo facciamo dunque nel ricordo del nome di Chino, il quale sempre si batté perché la nostra cara madre lingua friulana crescesse sana e forte, come dicono i versi di Bindo Chiurlo musicati da Arturo Zardini. Un salute furlanie da Lismont in sin al mar. Donge il mar il sang dai martars, su Lismont il loro altar. E la nestre chiare lenghe va desmont fin al timar. Rome d'isla soliende sul confin todesc esclar. Che tu crescis mari lenghe, sane, quarte se Dio ul. Che tu slargis la totende sulle chiarnie e sul Friul. Che tu vadis mari lenghe, serie, sclete, intor, intor, tu con quarte dutchest popul, salt, onest, lavorador. Sull'onda dei 100 e 100 ricordi che la Filologica suggerisce, s'affaccia in noi la memoria di due cari friulani scomparsi, Ercole Carletti e Carlo Conti, tanto benemeriti del glorioso sodalizio. E pensiamo che il miglior modo di onorarli sia l'esecuzione per voi de L'Amorose, una villotta in cui il primo stese i versi e che il secondo musicò. Come uè iere la sagre, come un signor iai fevelare. Ie mia fa voce di ridi, io stentavi a piaflar. che le ricciotte non dal voli mi pareve tut aur fin. Io ogni tanto drindulave col suo estro di Murbin. D'imbalar la prime danze e i disegni. Se tu mi vuoi, tu saras la mia sposine. Così si impromettù. Ma che le rizzi in bande, a pensai, mi fa dispietto. Vuoi sperare che tu malsaldis la pazzotta dal fazzoletto?